in primo piano. Buongiorno, buona mattinata a tutti. Cominciamo questa settimana che ci accompagnerà con la lettura dei giornali. I titoli di oggi, i fondi per il Sud, per il Mezzogiorno e i malumori nella maggioranza, nel Popolo delle Libertà, la presenza italiana in Afghanistan e poi tanto sport sui giornali di oggi, il bel successo di Federica Pellegrini ai mondiali di nuoto di Roma, ma anche notizie migliori sullo stato di salute di Felipe Massa. Tante altre cose interessanti che vedremo insieme, a partire dalle novità sul codice della strada, delle quali si occupa stamattina il Sole 24 Ore, ma anche i primi, come dire, le prime scaramucce, forse anche qualcosa di più, sul fronte delle ronde, con uno scontro ieri tra ronde, diciamo, di destra e di sinistra. Dicevo, probabilmente la notizia più importante, o comunque alla quale i giornali oggi dedicano la maggiore attenzione, è quella che riguarda le vicende del Sud, i fondi, i quattrini, insomma, per il Mezzogiorno. Su questo tema aprono numerosi giornali, a partire dal Corriere della Sera. Sud, l'intervento di Berlusconi, arriveranno i soldi ma basta con i giochi personali. Cerchiamo di capire un pochino che cosa succede dopo due giorni di polemiche e di pressioni dell'ala meridionalista del PDL. Scende in campo direttamente Silvio Berlusconi, che annuncia lo sblocco in tempi rapidi dei fondi per il Mezzogiorno, lancia un piano innovativo per il rilancio del Sud e attacca i personalismi. Ieri Gianfranco Micicchè, capofila della protesta, in un'intervista al Sole 24 Ore aveva ventilato la nascita di una nuova formazione politica meridionalista, probabilmente che si chiamerà Forza del Sud. Lo stesso argomento come titolo importante, anche perché non di apertura, su Repubblica: presto il piano per il Sud, ora basta giochi di potere. Berlusconi mette in campo la promessa di fare arrivare i fondi che hanno fatto montare la protesta di Micicchè e di Lombardo, che è, come sapete, il governatore della Sicilia. Il sottosegretario Micicchè è pronto a dare vita a una nuova forza, appunto, che abbiamo visto, la Forza Sud, e intanto il Cavaliere replica dicendo che arriveranno le risorse, ma certamente le richieste di tipo personale e gli attacchi personali sono un'altra cosa. Riepiloga anche tutte le notizie sul tema della nascita di un nuovo partito del Sud il Foglio di oggi, e sulla Stampa forse troviamo l'articolo che più ci aiuta a capire bene qual è il nodo della questione. Proviamo un pochino a leggere. Palazzo Chigi punta a stanziare 18 miliardi, ma rivendica il diritto di decidere come spendere queste somme. I soldi, l'articolo è di Amedeo La Mattina e di Stefano Lepri. Proviamo a leggere qualche riga, perché effettivamente chiarisce molte cose. I soldi per il Sud vengono sbloccati, ma si deciderà in modo centralizzato come spenderli. E questa è la novità che il governo offre alle regioni meridionali e a quella parte della maggioranza che minaccia di organizzare il partito per il Sud. Sulla carta la cifra potrebbe essere di 18 miliardi da qui al 2013. In concreto, però, fino a tutto il 2010 i soldi da spendere potrebbero essere proprio pochi. E non è detto che il Partito del Sud resti soddisfatto da questa iniziativa del governo, del Presidente del Consiglio. La notizia, la novità è tuttavia che il governo, Palazzo Chigi, punta a gestire in modo centralizzato questi quattrini, quindi dovrebbe decidere direttamente Palazzo Chigi come spendere i soldi. I fondi FAS di cui si parla sono quella parte del fondo per le aree sottoutilizzate destinata al Mezzogiorno che ammontava circa a 18 miliardi. La contesa all'interno della maggioranza, all'interno del PDL, è cominciata con la bocciatura da parte del governo del piano della Regione Sicilia per spendere 4,3 miliardi di questo importo. Non erano, si contestava, non erano veri investimenti, non c'era un uso efficace delle risorse e non a caso ancora sabato appunto i siciliani rivendicavano il diritto a utilizzare questi soldi. Però ormai una parte del FAS, ecco qui arriviamo alla questione più importante, una parte di questi fondi è stata dirottata ad altri usi, quindi il ministro Tremonti ha ritenuto di utilizzare queste risorse per altri interventi più urgenti in questa fase di profonda crisi. Primo di tutto, questi fondi sono stati utilizzati per la cassa integrazione. Quindi, dopo la decisione di ieri, i fondi potranno essere assegnati e da una parte la Sicilia ha rielaborato le sue proposte. Però, conclude l'articolo di La Mattina e di Lepri, le risorse effettivamente spendibili nel 2009 e nel 2010 rischiano di essere effettivamente poche. Ecco, questo il tema delle risorse per il Sud, che ha certamente una portata di tipo sociale, politica, economica, ma che certamente sta creando anche non pochi problemi all'interno della maggioranza, dove sembra di vedere una divisione sempre più profonda, se mi consentite una semplificazione, tra l'ala nordista e quella invece meridionalista del Sud. Altro tema che certamente non sta pesando all'interno della maggioranza è quello sulla questione afghana. Dopo gli attentati degli ultimi giorni si è registrata sabato una presa di posizione del ministro Bossi, che senza mezzi termini ha detto che bisognerebbe riportare tutti i nostri militari a casa, che la missione è insicura e che anche le risorse sono poche. Ieri ha risposto a questa presa di posizione il ministro della difesa La Russa, dicendo che dall'Afghanistan la missione afghana continua con gli alleati, questo è il titolo del Corriere della Sera, dall'Afghanistan torneremo quando sarà concluso l'impegno con gli alleati. Questo dice il ministro La Russa in un'intervista al Corriere della Sera e a Umberto Bossi, che come abbiamo detto riporterebbe a casa tutti i ragazzi, replica che negli ultimi anni è diventato tenero il ministro, ma non c'è polemica dentro il governo. A questo tema dedica un bell'articolo di commento Franco Venturini, Il coraggio della responsabilità. Leggiamo qualche riga. Umberto Bossi, ministro in carica di una Lega sempre più importante nella maggioranza di governo, ha detto sabato che i nostri soldati dovrebbero tornare a casa, visti i costi e i risultati della missione in Afghanistan. Il parallelo con l'identico parere che la sinistra radicale esprimeva, pur facendo parte del governo Prodi, sarebbe inesatto. Bossi ha parlato alle selezioni di Miss Padania, non in Parlamento, e il suo ha tutta l'aria di essere un auspicio teorico. Ma questo non toglie all'increscioso paradosso di un ministro che dichiara di volere il ritiro dall'Afghanistan mentre il suo governo manda rinforzi e prospetta persino un impegno accresciuto, come ha fatto il ministro Frattini nell'intervista pubblicata ieri sul Corriere della Sera. Ancora una volta salta agli occhi l'assenza di un sufficiente consenso sulle grandi scelte della politica estera italiana. Ancora una volta i nostri militari, che rischiano ogni giorno la vita, si trovano con le spalle mezze coperte e mezzo scoperte. Coperte da PDL, UDC e PD, scoperte dalla Lega, Italia dei Valori e dalla sinistra radicale. Speriamo che a nessuno di loro venga in mente di pensarci prima di affrontare i talebani e speriamo che finisca l'ipocrisia di considerare in Afghanistan un'esclusiva missione di pace, mentre è ovvio a tutti che lì, per rincorrere la pace, bisogna fare la guerra, tanto più necessaria è questa presa di coscienza se si considera che la situazione in Afghanistan non è certo in via di miglioramento. Sullo stesso tema anche La Stampa, con un editoriale di Vittorio Emanuele Parisi, Il dovere dell'Italia a Kabul. Ormai, ormai hanno cadenza quasi quotidiana le notizie di attentati, attacchi e operazioni militari di più vasta portata in cui sono coinvolte le truppe italiane in Afghanistan, che di per sé attestano quantomeno in un asprimento della situazione tattica e di teatro. Allora, qual è il quesito che si pone Vittorio Emanuele Parisi? Qual è il quesito che pone al governo? Il quesito che il governo e la maggioranza si devono porre è uno solo. L'Italia e le sue forze armate sono nelle condizioni di poter sostenere una campagna della durata ancora indefinita, nella quale i nostri soldati saranno chiamati sempre più a svolgere con crescente continuità un ruolo più aggressivo nei confronti degli insorti, come peraltro già stanno facendo egregiamente? E qui certamente la risposta è che sì, a condizione che però ci sia unità di vedute e volontà comune all'interno della maggioranza. Passiamo ora a, dicevamo, tanto sport anche oggi sui giornali. È lunedì, ma ieri insomma si è svolta la finale dei 400 stile liberi ai campionati mondiali di nuoto che si stanno svolgendo a Roma, e devo dire che tutti i giornali dedicano dei bei titoli e delle fotografie a questa notizia. Per esempio lo fa l'Unità, una bella foto di Federica Pellegrini, mondiale e record, Federica Pellegrini ha vinto l'oro nei 400 stile libero, prima donna a scendere sotto i 4 minuti. Ovviamente stesso tema anche con una grande foto e un bel titolo, i mondiali di nuoto, Fede può tutto, sulla Gazzetta dello Sport. Per gli appassionati dico che la Gazzetta riporta anche la notizia del primo derby tra Inter e Milan della nuova stagione, vinto dall'Inter con una doppietta di Milito. Tra l'altro su questo tema mi permetto di segnalare un articolo molto divertente uscito stamattina sul Sole 24 Ore. Quindi abbiamo visto, la Gazzetta ci racconta, negli Stati Uniti, dove le due squadre stanno facendo la preparazione precampionato, si è svolto ieri questo derby, ha vinto l'Inter 2-0, ma in realtà sul Sole 24 Ore Marco Bellinazzo ci dice che il derby tra Inter e Milan in Serie C non si potrebbe disputare. Che cosa succede? Ma succede che effettivamente, applicando i parametri patrimoniali che sono previsti per l'iscrizione delle squadre di calcio alla Lega Pro, la vecchia Serie C, l'Inter sarebbe completamente fuori, cioè non potrebbe proprio iscriversi, e il Milan sarebbe dentro, diciamo, per il rotto della cuffia. Tra A e B, ha provato a fare questo calcolo, un po' un divertissement, perché poi per la Serie A e Serie B si applicano criteri diversi. Però diciamo che facendo questo calcolo e applicando i parametri che sono previsti per l'iscrizione alla Lega Pro, vale a dire un rapporto tra il patrimonio e l'attivo non inferiore a 0,08, bene, pensate che 12 squadre tra Serie A e Serie B non potrebbero neppure iscriversi al campionato di Serie C. Sono, oltre all'Inter che abbiamo visto, sono il Bari, il Genoa, il Siena, e poi in Serie B andiamo dall'Ancona al Mantova, al Modena, al Grosseto, il Torino. Quindi insomma, pensate che il Torino, che è appunto retrocesso dalla serie A alla Serie B, non avrebbe neppure i parametri per giocare in Serie C, ovviamente in buona compagnia con altre 12 squadre. Su questo tema, tra l'altro, il Sole 24 Ore dedica anche la sua storia di copertina, Le nobili decadute dello sport in bancarotta. Questo è il titolo, l'autore è sempre Marco Bellinazzo, che ci racconta come dal calcio al basket, passando per il volley e per Il rugby non basta aver vinto uno scudetto, aver insomma messo a segno ottimi risultati sul campo per salvare le squadre dal fallimento, e anche quest'anno molte società blasonate rischiano di sparire o di dover ricominciare insomma sotto una nuova veste, societaria. Vi accennavo all'apertura sul Sole 24, del Sole 24 Ore di oggi, lo abbiamo sentito anche ripreso come titoli nei GR. Non pagata una multa su tre. I comuni perdono 500 milioni all'anno perché non riescono a riscuotere le multe. Una multa su tre non porta un euro nelle casse del comune che l'ha elevata. I numeri dei bilanci locali mostrano bene i difetti della riscossione, che ogni anno costano circa 500 milioni di euro ai sindaci. E da qui, questa è l'altra notizia, nasce l'idea, inserita nel decreto legge sulla manovra d'estate, di fare un condono, una sanatoria per i vecchi verbali, quelli fino alla fine del 2004. Con le nuove regole i comuni potranno consentire ai cittadini ritardatari, cioè quelli che non hanno ancora pagato insomma la multa, di mettersi a posto, mettersi in regola con un forte sconto, pagando solo la sanzione minima, le spese di notifica e un aggio, insomma, diciamo una somma aggiuntiva pari al 4%, quindi per molti diciamo una possibilità significativa per mettersi in regola con il pagamento di vecchie multe. L'iniziativa e l'idea è venuta, scusate, al neo assessore al bilancio di Roma Maurizio Leo. A Roma, devo dire, quello delle multe non pagate pare essere un problema abbastanza serio, perché pensate che il comune riesce a riscuotere a malapena una multa su due, quindi rispetto anche alla media nazionale di una su tre. Complessivamente il Sole 24 Ore di stamattina ha stimato che circa 1.400 milioni questo ipotetico condono. Dico ipotetico perché in realtà nessun comune ha l'obbligo di fare la sanatoria, i comuni decideranno liberamente, il Sole ne ha sentiti alcuni, Roma che certamente la farà, probabilmente la farà Napoli, la farà Caserta, la faranno insomma altri comuni, ma insomma alcune amministrazioni hanno espresso o comunque stanno esprimendo un parere negativo, ad esempio Milano pare non sia orientata a procedere a questa sanatoria. Tema poi di grande attualità sulla seconda pagina del Sole 24 Ore di stamattina, le modifiche al codice della strada. Qui entriamo in un capitolo veramente delicato, perché si sta verificando un intreccio di norme e di novità che sicuramente rischia di disorientare tutti quei milioni e milioni di persone che in questi giorni, in queste settimane si metteranno in viaggio. Che cosa succede? Succede che con la legge sulla sicurezza che diventerà operativa a partire dall'8 agosto entra in vigore un primo blocco di novità e di modifiche al codice della strada. Per citarne una, entra in vigore quella norma che prevede una specifica aggravante per tutti gli incidenti gravi che avvengono dopo le ore 22. Contemporaneamente entrano in vigore alcune norme che elevano le sanzioni, ad esempio per i limiti di velocità, e altre cose. Contemporaneamente però il Parlamento sta cercando di arrivare velocemente, rapidissimamente, all'approvazione prima della pausa estiva di un disegno di legge che contiene altre modifiche, nuove, ulteriori modifiche al codice della strada. Il Senato, il testo è già stato approvato dalla Camera, dovrebbe andare in questi giorni in discussione al Senato e c'è un impegno, diciamo, da parte dei parlamentari per approvarlo entro la pausa. La cosa curiosa è che alcune misure contenute in questo provvedimento sembrano contraddire quelle che entreranno in vigore l'8 agosto e che sono contenute nella legge sulla sicurezza. Ne cito una per tutte: abbiamo detto che vengono inasprite le sanzioni per chi supera i limiti di velocità con la legge sulla sicurezza. Bene, invece con il disegno di legge di riforma, che ancora non è stato approvato, si riducono le decurtazioni dei punti per chi supera i limiti di velocità. Quindi attualmente chi viene preso dall'autovelox e supera tra 10 e 40 km all'ora i limiti di velocità ha una decurtazione di 5 punti. In futuro, quando entrerà in vigore, quando sarà approvata questa nuova norma, ne perderà solamente 3. Attualmente il superamento dei limiti tra 40 e 60 km all'ora è punito, oltre che con la sanzione pecuniaria, anche con un taglio di 10 punti dalla patente, e in futuro invece i punti diventeranno 6. Insomma, quindi è concreto il rischio che si parta per le vacanze con un certo codice della strada e si torni poi con un altro. Tra l'altro, a questo argomento, cioè anche un po', insomma, i paradossi di questo modo di legiferare, è dedicato anche un editoriale, un commento sul Sole 24 Ore di oggi, scritto da Maurizio Caprino. Abbiamo parlato di sicurezza e il discorso sicurezza ci porta senz'altro a un'altra notizia interessante, anche se un pochino triste, se posso permettermi, che troviamo su molti giornali di oggi. Rissa fra ronde, in tilt il piano sicurezza, titola ad esempio il Secolo XIX, oppure il Corriere della Sera, tensione a massa, una rissa tra ronde di destra e di sinistra. Vediamo un pochino di capire che cosa è successo. Va in scena a Massa Carrara la nuova sicurezza dopo l'introduzione delle ronde. Ricordate che nelle scorse settimane grandi polemiche hanno accompagnato l'introduzione di questo, diciamo, nuovo strumento di vigilanza attiva da parte dei cittadini, che era contenuto proprio nella legge sulla sicurezza. Vediamo sempre il Secolo. Risultato: scontri e disordini. Linea ferroviaria Genova-Pisa bloccata, 2 arresti, 3 fermi, almeno 5 poliziotti feriti. Cos'è successo? Semplicemente che i volontari tutori dell'ordine hanno pensato bene di scatenare i disordini invece che preoccuparsi dell'ordine, perché sono entrati in rotta di collisione le ronde di destra e di sinistra. E dicevo anche il Corriere della Sera, che tra l'altro con una scheda ci ricorda anche quali sono i vincoli per la nascita, l'istituzione, la costituzione di queste rondine. Proviamo a leggere. Secondo il regolamento elaborato dal Viminale, qui vado a memoria, mi sembra non ancora in vigore, insomma solo predisposto, ma in attesa, insomma, di entrare in vigore. Comunque, secondo questo regolamento, per partecipare alle ronde è necessario iscriversi a un registro gestito dalle prefetture. Le squadre, le ronde, potranno avere da un minimo di 3 a un massimo di 5 componenti. Sono vietati simboli e nomi ispirati a partiti politici, quindi evidentemente quelle di cui si parla per la notizia di cronaca di oggi non sono in regola. Che cosa possono fare le ronde, quali sono, insomma, le attività consentite e quali divieti? È vietato ogni tipo di arma, quindi utilizzare qualsiasi arma, anche bianca. È vietato utilizzare uniformi militari e mezzi a motore, quindi ronde solo a piedi. Le squadre faranno solamente da supporto al territorio e dovranno limitarsi alla segnalazione delle situazioni di pericolo. Vietato anche identificare o sottoporre a controlli le persone. Ronde contro ronde a massa, si incontrano di notte, si insultano, si affrontano a seggiolate, a colpi d'asta di bandiere davanti a famiglie e a turisti sbalorditi. Invece di aiutare il lavoro delle forze dell'ordine, i volontari della legalità e della democrazia, così come si definiscono, finiscono per complicare i lavori di chi deve invece garantire la sicurezza. Tra l'altro, insomma, va sottolineato che questo dal principio è stato una delle critiche maggiori che fatte alla nascita delle ronde, cioè che alla fine il rischio che potessero in qualche modo creare più problemi di quanti ne avrebbero risolti era reale. Diciamo che questa prima esperienza e questa notizia di oggi ci dice che insomma sulla questione delle ronde ne sentiremo ancora delle belle nei prossimi giorni. Bene, io concludo, ripasso la linea e vi saluto a domani. Grazie.